Accomodatevi, grazie. Quelli che erano già accomodati si possono alzare in piedi, così poi si accomodano di nuovo. Siete contenti che sto io? Poi ve la faccio alla fine la domanda e vediamo se rimane così. Prima di ogni cosa vorrei ringraziare ognuno di voi che ha partecipato all'incontro di sabato scorso, Family Day, che era un incontro dedicato alla genitorialità con bambini al di sotto di 12 anni. Io voglio ringraziare chi c'era, voglio ringraziare ognuno che ha dato il suo contributo, perché è così bello, è così importante che noi ci prendiamo cura della salute della nostra famiglia. Vedete, la salute delle famiglie equivale alla salute della Chiesa. Se le famiglie stanno bene, la Chiesa sta bene. Ma non solo questo, se le famiglie stanno bene, la società sta bene. In effetti la società non fa altro che mostrare e amplificare quello che è la salute, lo stato di salute delle famiglie. Quindi quando noi ci prendiamo cura dello stato di salute della nostra famiglia, nella nostra posizione di marito, di moglie, di figlio, stiamo facendo un ottimo lavoro. Oggi quello a cui guarderemo è la relazione tra marito e moglie. E questo non riguarda soltanto chi è sposato, chi è fidanzato, chi ha intenzione di sposarsi, riguarda ognuno di noi, perché ognuno di noi è in una famiglia e quindi ha un padre che è un marito e una madre che è una moglie. Ognuno di noi ha avuto degli esempi dalla famiglia in cui è cresciuto che possono essere stati aderenti o meno a quello che è la parola di Dio. Infatti noi cercheremo di guardare al rapporto tra marito e moglie attraverso la parola di Dio, per una ragione molto semplice, perché è Dio che ha inventato il matrimonio, è Dio che ha inventato la famiglia e quindi Lui sa come farla funzionare. Noi possiamo avere la nostra idea, la nostra cultura, possiamo avere la nostra esperienza, ma Dio è quello che sa come farla funzionare. Noi non risponderemo certamente a tutte le domande, anche perché io non so neanche quali sono tutte le domande. Quindi non troveremo tutte le risposte. Però certamente possiamo essere incoraggiati da una cosa essenziale, e cioè che Dio ha a cuore le famiglie, Dio ha a cuore i matrimoni e Dio vuole il successo e il benessere delle famiglie e dei matrimoni. Quindi questo potrà portare speranza, perché noi possiamo vivere una situazione felice, vivere una situazione con alcune lacune, vivere una situazione disastrosa, venire da un divorzio, andare verso un divorzio, ci sono mille varianti, ma una cosa è sicura: nel Signore abbiamo speranza e nel Signore c'è ogni soluzione a ogni risposta, a ogni domanda che noi possiamo avere. Quindi questo è il percorso che ci sta dinanzi. La difficoltà più grande che ho avuto è scegliere le cose che non dovevo dire, perché potremmo stare qua realmente per parecchio tempo per cercare di capirci qualcosa. Figuratevi se uno ha l'idea di voler spiegare, ancora peggio, però per fortuna che quello che io vado a dire lo prendo dalla parola di Dio e quindi è Lui che se ne prende la responsabilità. E io prego, e ho pregato, che ognuno di noi possa ricevere quello di cui ha bisogno, possa questa parola di questa mattina avere un impatto su quella che è la nostra situazione, che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto o che andremo a vivere, possa avere un impatto sulle scelte che faremo, sul modo a cui ci approcceremo. Basta dire chiacchiere, Nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, l'Apostolo Paolo fa un elenco proprio di cose che bisogna fare, di cose che non bisogna fare, proprio parlando riguardo ai credenti. Lo mette proprio nero su bianco e a un certo punto dice: queste cose non è che non le dovete soltanto fare, non le dovete neanche nominare. E quindi invita e sfida ciascuno a condurre una vita saggia, condurre una vita buona che possa avere un impatto positivo. Poi a un certo momento accende un faro sulla famiglia, sul rapporto tra marito e moglie, sulla relazione fra genitori e figli. Evidentemente già da allora le cose non andavano come dovevano andare, perché se fosse stato un argomento già risolto non avrebbe perso tempo, ma evidentemente già da allora c'erano problemi e forse la situazione oggi è leggermente ancora deteriorata. E dice al capitolo 5, del versetto 22: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è il capo della moglie. Siete ancora contenti che sto io qua? No, non vorrei che mentre leggo vi alzate e ve ne andate. Aspettate la fine. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, Lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Ora, questa serie di versetti hanno il potere immediatamente di scatenare l'orticaria a chi li legge. Subito vengono almeno due reazioni. La prima: io non posso fare quello che viene richiesto perché il Signore l'ha chiesto, ma non sa come mio marito o mia moglie. La seconda reazione, la prima reazione è quindi trovare tutte le scuse per non mettere in pratica quello che viene detto. La seconda reazione è quella di trovare tutte le accuse per cui l'altro dovrebbe fare quello che mi spetta. È indipendente se siamo marito o moglie, c'è proprio una cosa di stomaco che succede, almeno a me è così. Però io credo che noi questa mattina possiamo cogliere la giusta prospettiva per guardare a questi versetti, perché in questi versetti c'è guarigione, in questi versetti c'è consolazione, in questi versetti c'è speranza, in questi versetti c'è potenza. Solo dobbiamo imparare a vederli, e per vederli dobbiamo tornare all'origine del fatto. L'origine del fatto è scritta in Genesi, al capitolo 2, versetto 18. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E perché ogni essere vivente portasse il nome dell'uomo che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un sonno profondo all'uomo che si addormentò. Questa è la prima anestesia totale. fece cadere un sonno profondo all'uomo che si addormentò. Prese una delle costole e la rinchiuse la carne al posto di essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Ora, questa sembra una storiella da raccontare ai bambini, ma voglio ricordarci che questa è la parola di Dio e che neanche una virgola, un accento è messo lì tanto per essere messo. E se la storia è così semplice, è probabilmente è semplice affinché noi la possiamo capire. Immaginate se la scriveva difficile, Signore, che cosa sarebbe successo. Comunque, facciamo alcune osservazioni. Se voi andate a leggere il capitolo 2, trovate che già viene descritta la storia della creazione dell'uomo e della donna. Al capitolo 3, il Signore ha avuto l'urgenza di ripeterla, aggiungendo dei dettagli, aggiungendo delle immagini. Ora, se lui l'ha ripetuta aggiungendo qualcosa, significa che c'è qualcosa di importante, che noi dobbiamo imparare a guardare e a capire. La creazione della donna è la risposta a un bisogno dell'uomo che non trovava soluzione. Significa che l'uomo da solo non sapeva stare. Aveva provato a stare con tutti i pappagalli, con tutte le... ma aveva bisogno di qualcos'altro. Vedete che questo è un disagio, ed è un disagio che, se la Bibbia dice che aveva l'uomo di allora, ce l'ha anche l'uomo di oggi. Non è che ha cambiato la natura dell'uomo, Dio. Due, l'uomo e la donna erano fatti dello stesso impasto, fatemi dire così, e ricevono vita dallo stesso soffio vitale. Cioè Dio non è che ha preso dell'altra terra, che dice magari quella era argillosa, quella terra, quella è roccio, no. Dallo stesso impasto da cui ha fatto l'uomo, ha preso la donna. E anche dallo stesso soffio vivente che c'era dentro. Quindi non poteva fare una cosa più uguale, va bene, proprio uguale. Terza osservazione, l'uomo ha riconosciuto se stesso nella donna. Questa è carne della mia carne, ha riconosciuto se stesso. E se andate a leggere, non c'è nessuna dichiarazione, né di supremazia, dice, però io sono meglio. E non c'è nessuna dichiarazione di inferiorità, anche se lui aveva bisogno della donna. Non è che si è sentito di meno, c'era proprio una armonia, una equità, un qualcosa che funzionava bene, un qualcosa che andava bene, un'armonia e una parità. E anche la donna sembra che non si sia lamentata del fatto, e quindi gli andava bene anche a lei. Terza osservazione, o quarta, ho perso il conto. Dio non ha aggiunto nessuna indicazione, non ha aggiunto niente. L'ha portata dall'uomo, l'uomo ha detto, mo che bello, finalmente. E è finita lì la storia. Dio non ha aggiunto, non ha dato delle regole, non ha dato dei consigli, non ha fatto nessun tutorial, niente. Andava bene così, era qualcosa che funzionava. E funzionava divinamente in un modo naturale. Ci sono altre due considerazioni che vorrei che noi facessimo per cogliere il quadro entro il quale si sta muovendo questa storia. L'uomo dice finalmente. Quando è stata l'ultima volta che è arrivato tuo marito, è arrivata tua moglie e tu hai detto finalmente? Ma non che hai detto finalmente, dici, finalmente è venuto così, almeno mo cucina e mangiamo. Oppure dici, finalmente che è venuto così va a buttare la spazzatura. No, ma finalmente, perché tu senti che quel bisogno è soddisfatto. Quando è stata l'ultima volta? Lo scopo, l'obiettivo di Dio è che ogni giorno possa succedere e ci possa essere questa attitudine, questa occasione di dire finalmente. E poi alla fine erano nudi e non ne avevano vergogna. Ma non pensate a male, va bene, anche se ha il suo perché sto fatto. Erano nudi significa molto semplicemente non avevano niente da nascondere l'uno all'altro. Non c'era nessuna password al telefonino. Non c'era nessun luogo segreto. Non c'era niente che uno si preoccupava di nascondere all'altro. Ognuno poteva dire all'altro esattamente quello che pensava, quello che credeva, quello che sentiva. E sentirsi accettato. Ed erano due persone diverse. Eppure potevano essere uno di fronte all'altro, sentendosi completamente e, come dire, accettati. Ora io non voglio chiedere a ognuno di noi quante cose stai nascondendo agli altri, a tuo marito, a tua moglie, perché ognuno sa i fatti suoi e se la vede lui. Però c'è qualcosa che ci fa capire che la situazione è cambiata. È cambiata. Dio è rimasto lo stesso, ieri, oggi, in eterno, ma questa situazione, questo quadro di convivenza è cambiato. E tutto è cambiato con il peccato. Il peccato ha portato la maledizione in tutta la creazione e in tutte le creature. Il peccato ha rotto quella che era la relazione tra l'uomo e Dio, e ha rotto, danneggiato, deformato quella che è la relazione tra uomo e donna, tra uomo e uomo. Quindi questo cambiamento non lo dobbiamo sottovalutare, dobbiamo tenerlo presente quando andiamo a leggere Efesini. Perché se in prima battuta, quando Dio ha portato l'uomo alla donna, non ha avuto bisogno di aggiungere nulla, adesso le cose sono cambiate. È venuta una maledizione che il peccato ha portato, e quindi Dio ha dovuto dare delle indicazioni nuove, ha dovuto dare dei consigli inediti, che non servivano prima, ma servono adesso. Ma questi consigli hanno solo un obiettivo: recuperare quel finalmente e recuperare quella mancanza di vergogna. Questo è l'obiettivo per cui Dio ha detto «Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa». Perché Dio ha dovuto dire in Genesi al capitolo 3, dopo il peccato, alla donna: «Io moltiplicherò le tue pene e i dolori per la tua gravidanza, Mimi, a te. Con dolore partorirai a papà. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito e egli dominerà su di te». Quindi tutta quell'armonia, quell'equità, quella complicità che c'era nel primo quadro, prima del peccato, è sparito. E adesso c'è disordine, esagerazione e abuso. Ma tutto questo non era nel piano di Dio. Come non è nel piano di Dio la malattia, come non è nel piano di Dio la morte. Noi dobbiamo comprendere questo. Perché è lo stesso Dio che ci chiede di pregare per la guarigione, è lo stesso Dio che ci ha detto: mogli, siate sottomesse ai mariti, mariti amate le vostre mogli. Quindi questa nuova prospettiva ci deve mettere nella condizione di guardare a queste parole non come un ulteriore condanno. Dici, ma non basta il marito che devo avere, pure sottomessa devo stare. Non è un'ulteriore condanna, non è un ulteriore peso. Mariti, amate le vostre mogli, sì, ma tu hai capito chi è mia moglie? No, no. Quando Dio ci dice di fare così, è per farci recuperare quel finalmente e quella mancanza di vergogna. Quindi se noi riusciamo a cogliere questo, riusciamo a vedere in una prospettiva diversa quello che viene scritto. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, mariti amate le vostre mogli, è il programma di Dio per ripristinare quello che è il suo piano, per rimetterci nella posizione giusta per poter gioire, per poter godere del nostro matrimonio, senza che questo sia un peso, senza che questo sia un limite. È in questa prospettiva che noi dobbiamo guardare quello che è successo, quello che sta succedendo e quello che succederà. Efesini 5:22 è una benedizione, non un'ulteriore condanna. C'è una delicatezza unica in quello che abbiamo letto, almeno io la leggo così. All'inizio dice: mogli, sottomesse ai vostri mariti, mariti amate le vostre mogli. Alla fine conclude proprio al contrario. Così ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Ma in buona sostanza che significa? Rispettare il marito, amare la moglie come se stesso. Io ho cercato di trovare le parole più semplici, quelle che riesco a capire meglio. Vedete, la questione non è chi ha torto o chi ha ragione. La questione non è chi lo sa fare meglio. La questione è che il mio atteggiamento, la mia attitudine permetterà il successo di mia moglie. L'attitudine di mia moglie, le sue scelte contribuiranno al mio successo. Perché se ognuno poteva fare per conto suo, vi ricordate l'inizio della storia? Sarebbe stato diverso. Quindi, potesse anche che tu lo sai fare meglio. Però c'è una cosa, che Dio ti ha dato un ruolo. Ed è nell'ambito di quel ruolo che tu sei chiamato e chiamata ad avere responsabilità e a fare delle scelte. Dio ha inventato il matrimonio e Dio sa come funziona. Rispetto, altro non è che riconoscere il proprio ruolo e riconoscere anche il ruolo dell'altro. E non è che la moglie deve riconoscere il ruolo del marito e il marito non deve riconoscere il ruolo della moglie, o la moglie deve amare il marito deve amare la moglie e la moglie non deve amare il marito. C'è complicità in questo. Ognuno deve fare la sua parte. Quindi se rispetto, possiamo dire che non è altro che riconoscere il proprio ruolo e quello dell'altro e agire in conseguenza. Facciamo un esempio. Vi ricordate la tentazione? Il serpente è andata. Chi è che ha parlato prima? Chi è che avrebbe dovuto parlare? A chi era stata fatta la domanda? Chi è che sapeva il fatto, come era stato detto? Questo significa rispettare il proprio ruolo. Probabilmente la donna lo sapeva meglio dell'uomo come doveva dire, però non è andata a finire come doveva, fatemi dire così. Quindi le esperienze ce le abbiamo scritte, ce le abbiamo chiare. Amare. Amare è fare all'altro quello che vuoi che l'altro faccia a te. Amate gli altri, ama il tuo prossimo come te stesso. Quello che vuoi che gli altri facciano a te, tu fallo a loro. La verità è che noi non abbiamo abbastanza amore neanche per noi stessi, perché altrimenti un sacco di stupidaggini che io ho fatto, se mi fossi veramente voluto bene, non le avrei fatte. Un sacco di scelte che ho fatto, se mi fossi veramente voluto bene, non le avrei fatte. Quindi se io già riconosco che non ho abbastanza amore per me stesso, come faccio a trovare l'amore anche per l'altro, per il prossimo? Non per il prossimo, per il più prossimo, mia moglie. Se non ce l'ho, non ce l'ho. Ed è dimostrato che non ce l'ho. È dimostrato che tu non ce l'hai. Perché? Perché noi ci scontriamo quotidianamente con una realtà che è scritta in Geremia, al capitolo 17, il versetto 9. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Chi lo potrà conoscere? Il cuore dell'uomo. E non sta parlando dell'altro uomo. Il cuore dell'uomo. E non sta parlando solo dei maschi. È insanabilmente malvagio. Quindi noi non possiamo riuscire a ristabilire quello che Dio ci sta dicendo di fare, di rispettare il marito e di amare la moglie. Non lo possiamo fare. Così come non possiamo fare un sacco di altre cose. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Ed è per questo che noi qui questa mattina ne possiamo parlare con speranza, perché al di fuori di questa speranza non c'è speranza. Romani, capitolo 5, il versetto 5, è uno dei versetti che io amo di più. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Sì, è vero, tu e io non abbiamo abbastanza amore per amare noi stessi, non abbiamo abbastanza amore per amare il prossimo, per amare il nostro marito, per amare la nostra moglie. Non abbiamo abbastanza amore, non ce l'abbiamo. Possiamo sforzarci, magari a San Valentino ci ricordiamo del regalo, però è qualcosa di volatile proprio. Ma l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Ed è con quell'amore che il Signore ci chiama ad amare. Ed è con quell'amore che noi abbiamo la possibilità di amare. Quindi va da sé che se tu non hai Gesù nel tuo cuore e il suo amore non è sparso nel tuo cuore, non hai speranza. Sì, ci può essere qualche carattere più compatibile con l'altro, ma quel finalmente e quella mancanza di vergogna rimangono un miraggio. Rimangono qualcosa che sai che ci sono, ma non riesci ad afferrarli. Invece, quando noi possiamo amare con l'amore di Dio, le cose cambiano, perché lì possiamo attingere alla forza, all'importanza e alla possibilità di colmare quel vuoto. Ma com'è l'amore di Dio? Vedete quante domande vi faccio? E che mi faccio io che poi non dormo, vabbè. Una caratteristica di questo tipo di amore, cioè dell'amore di Dio che è sparso nel nostro cuore. 1 Corinzi 13 ne dà un elenco, ma nel versetto 7 è scritto qualcosa di molto particolare. 4 punti. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Spera ogni cosa, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa. Allora sì che è possibile amare. Allora sì che è possibile. Perché né tu né io possiamo sperare in ogni cosa o credere in ogni cosa. Ma con l'amore di Dio lo possiamo fare. Con l'amore di Dio lo possiamo fare. Vedete, io sono arrivato alla conclusione che l'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è l'esempio di una famiglia fondata sui principi di Dio. Il che non significa che è una famiglia perfetta o che non succede mai niente che non dovrebbe succedere, ma è una famiglia che sceglie la prospettiva giusta. Una famiglia che sceglie di riconoscere qual è la verità. E la verità è che noi senza di Dio non abbiamo nessuna possibilità di accedere al successo del nostro matrimonio, della nostra relazione. E il successo, lo ripeto, è quel finalmente e quel senza vergogna. Ora noi possiamo venire, come ho detto all'inizio, da percorsi diversi, essere in situazioni diverse. Quindi ci sono delle varianti che ci sfuggono, mi sfuggono. Possono sfuggire a me, ma non al Signore. Per una ragione molto semplice. Perché è Lui che l'ha inventato e Lui sa come funziona. E Lui sa per me che cosa significa amare mia moglie. Sa anche per me che cosa significa che mia moglie mi deve rispettare. Ma lo sa anche per te, lo sai. Quindi noi dobbiamo fare solo una decisione, che è quella di accettare il suo piano, che è quella di accettare il suo metodo, è quella di credere che la sua parola è vera. Mogli, siete sottomesse ai vostri mariti, mariti, amate le vostre mogli. Se è questo che ha detto, è questo che dobbiamo fare. E io ho scoperto che lo possiamo fare sempre meglio. Lo possiamo fare sempre meglio. E meglio lo facciamo, e meglio noi sperimentiamo quel finalmente e quel senza vergogna. Ora, la decisione che io chiedo a voi, decidi di fare come Dio dice. Non ti far venire il mal di stomaco quando leggi questi versetti. Non trovare tutte le scuse o le accuse plausibili, ma arrendi te stesso a Gesù. Perché ognuno di noi è responsabile di quello che Lui fa. Io non sono responsabile di quello che farà mia moglie. Tu non potrai decidere quello che farà tua moglie o tuo marito. Tu puoi decidere quello che farai tu. E quello che farai tu porterà benedizione nella tua vita e aiuterà l'altro ad avere una prospettiva più vera di quello che il Signore sta dicendo. Allora, come coppia, come aspirante coppia, se hai il desiderio di sposarti un domani, è a questo che ti chiama il Signore. Se sei uomo, ad amare tua moglie. Se sei donna, a rispettare tuo marito. E non è che quando ti sposi, perché io sono stata a riflettere, in ogni matrimonio vengono letti questi passi. Ma quando vengono letti, sapete che cosa? Sì, ma questo vale agli altri, non vale a me, perché a me è tutto diverso. Non illuderti, perché la maledizione del peccato non te la scrolli di dosso così, soltanto dicendo no, non è a me. Te la scrolli di dosso solo se ti inchini alla croce di Gesù e dici: Signore, tu, non io, anche in questo, in questa relazione, anche in questo quadro. Siete contenti ancora? Veramente? E allora alziamoci in piedi e prendiamo qualche momento per noi stessi per decidere che cosa fare di questa parola. Se vogliamo che questa parola abbia un impatto e cambi in meglio. E dopo che abbiamo preso qualche momento per noi stessi, se c'è tuo marito o tua moglie a fianco, prega con lei o prega con lui. Anche semplicemente per dire: Signore, aiutaci, lo vogliamo fare. E questo farà del bene a te, alla tua famiglia e alla Chiesa. Preghiamo.